30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Superando le aspettative della vigilia, il G8 che si è svolto all'inizio del mese all'Aquila ha annunciato aiuti per 20 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni per gli agricoltori dei paesi poveri, soprattutto per l'Africa. Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo rurale e l'autosufficienza alimentare. La sicurezza alimentare, si legge nella dichiarazione finale del vertice, è strettamente legata alla crescita economica e al progresso sociale, così come alla stabilità politica e alla pace. Ancora benvenuti a 30 minuti in cronaca, dunque torniamo a parlare dell'Africa. Abbiamo alcuni ospiti, ma io voglio subito fare una domanda, la faccio al dottor Cipriano Pira. Il dottor Cipriano Pira è responsabile di un ospedale che conosceremo meglio nel nord dell'Uganda. Volevo subito chiedergli in che modo si legano autosufficienza alimentare e sviluppo nell'Africa rurale. Well, I think food security is a basic thing for any population. Credo che la sicurezza alimentare sia la base su cui poggia il benessere di qualsiasi popolazione. Nel nord dell'Uganda, un buon raccolto consente di avere qualche soldo in più per mandare i figli a scuola. Significa migliorare la qualità sanitaria della propria vita e dunque animare l'intera economia. Insomma, un motore vero e proprio, non solamente quindi la necessità ovvia di, come si dice in Italia, di mettere insieme il pranzo con la cena, ma di innescare un percorso. Presento subito il nostro secondo ospite, la dottoressa Dominique Corti, benvenuta. Grazie, buongiorno. A lei chiedo invece subito di raccontarci in breve, so che non è semplice, che cos'è il St. Mary Lacor Hospital. Ma è un ospedale che è stato fondato 50 anni fa dai missionari comboniani nella diocesi di Gulu in Nord Uganda. I miei genitori, medici entrambi, sono arrivati lì nel 1961, hanno trovato un piccolo reparto da 30 letti e un ambulatorio, si sono sposati lì, hanno vissuto lì tutta la loro vita professionale e l'hanno portato ad essere quasi quello che è adesso. Cioè è praticamente il secondo ospedale del paese, abbiamo 500 letti, 300.000 pazienti all'anno tra i ricoverati che sono più di 40.000 e le visite ambulatoriali che sono intorno ai 260.000. La metà di tutti questi pazienti ricoverati ambulatoriali sono bambini. Per noi bambini vuol dire sotto i 6 anni, 6 anni vanno nei reparti degli adulti. Dottor Pira, lei è il direttore del Lacor Hospital, le chiedo quali sono le principali, diciamo, le priorità sanitarie all'interno dell'ospedale? Well, Lacor Hospital, as any hospital in a developing country, the main areas are still the infectious diseases. Le malattie infettive sono ancora il principale nemico di un paese come il nostro. Malaria, infezioni del tratto respiratorio e poi naturalmente le sindromi diarroiche, le infezioni intestinali e le malattie della pelle. Poi dobbiamo ovviamente aggiungere le sindromi epidemiche, in primo luogo l'HIV e i conseguenti casi di AIDS conclamato. Queste sono le sfide quotidiane del nostro ospedale. Add to it the epidemic of HIV combined with AIDS HIV, so these are the main burden within the hospital. Ecco, a proposito dell'HIV, negli anni passati l'Uganda, come altri paesi della regione, ha confrontato dei picchi assolutamente drammatici. Qual è la situazione? Mi spiego, in Africa spesso si trasmette, si comunica l'immagine che le emergenze sanitarie crescano continuamente. In realtà, ho letto alcuni dati, sembra che in Uganda la situazione non sia quella, che le cose possono migliorare. Yes, indeed. The HIV/AIDS situation in Uganda reached its peak. There was widespread. Senz'altro le cose possono migliorare. Quando l'epidemia di HIV ha raggiunto il suo picco, c'è stata una forte reazione collettiva di tutta la società ugandese. È stata attivata una vasta campagna di informazione sanitaria basata sui comportamenti e le pratiche associate alla trasmissione del virus. È grazie a questo sforzo che la diffusione della malattia è scesa al 9% su scala nazionale, ma nel nord la situazione di incertezza e le difficoltà economiche ci vedono ancora indietro rispetto ad altre zone del paese. Is still high, a little higher than that in the south. Dottoressa Corti, lei è nata in quell'ospedale e quindi, come dire, lo conosce meglio di tantissimi altri. È il luogo in cui è cresciuta. So che parla bene l'acioli, mi hanno detto. Beh, sono andata alle elementari, ma già lo sapevo prima di andarci. Insomma. Insomma, fa parte della sua storia, della sua cultura. Però ho letto che lei oggi si dedica soprattutto a creare e a raccogliere gli strumenti finanziari perché questo progetto vada avanti. Ci esatto. Spieghi? Ovviamente io ho fatto medicina per andare a lavorare giù, però quando ben mi sono laureata mi sono resa conto che l'ospedale era ormai molto grande e non c'era bisogno di me in questa capacità. Avrei potuto fare molto di più per l'ospedale cercando di darmi da fare per la fondazione che i miei genitori avevano creato proprio con lo scopo di aiutare questo ospedale sia mediante la raccolta fondi ma anche con l'invio di materiali, assistenza tecnica eccetera. L'ospedale diventa sempre più grande, ha bisogno di molti soldi per poter aiutare una popolazione che a causa degli oltre 25 anni è piombata in una situazione veramente di povertà drammaticissima e quindi la maggior parte dei pazienti viene curata gratuitamente o comunque a un prezzo simbolico che viene richiesto loro e nessun paziente viene mandato via perché non ha i soldi per potersi far curare. Per cui questo vuol dire che il 70% circa dei fondi di cui ha bisogno l'ospedale annualmente come costi correnti deve essere trovato fuori. Ecco, quanto costa un ospedale come questo in un anno indicativamente? Abbiamo un budget di circa 3 milioni di euro all'anno di costi correnti, che può sembrare molto, in realtà tutto il nostro ospedale con i suoi 300.000 pazienti curati, 600 dipendenti che hanno un mestiere in una zona dove meno del 10% della popolazione riesce ad avere un impiego, gli oltre 250 studenti che studiano, residenti che studiano nei corsi, infermieri, assistenti di laboratorio, eccetera, è una quantità, una massa enorme di lavoro che in viene realtà fatto. Non sembrano affatto molti, 3 ecco, milioni infatti, per il lavoro che fate. Esatto, mio marito è chirurgo e solo la sua unità, il suo reparto di chirurgia qui a Milano, nel centro Milano, gira n volte questa cifra, insomma. Su questo non abbiamo dubbi, sono meccanismi molto diversi, molto lontani, molto efficienti. 50 anni dunque di questa avventura. Lei ha detto una cosa su cui vorrei insistere, ha detto: io non servo più come medico, ho capito bene? Sì. Che cos'è accaduto in questo paese? Le cose vanno avanti. Spesso in Africa c'è la sensazione, almeno, che vista da noi tutto si cristallizzi. Non è così. No, noi abbiamo in Uganda esiste una facoltà di medicina storica creata già a metà, credo intorno agli anni 30, 1930 eccetera, che era ed è estremamente prestigiosa, hanno studiato lì e lavorato lì professori importantissimi. Se ne sono aggiunte due di facoltà recentemente, la terza proprio nel nord del paese, quindi ci sono dei medici. È ovvio che è una grande sfida perché rimane pur sempre un paese dove c'è meno di un medico ogni 10.000 abitanti e dove ovviamente molti dei medici che si formano poi cercano di trovare un modo per portare avanti dignitosamente la propria famiglia, quindi sono costretti tante volte a emigrare o comunque rimanere nelle capitali per riuscire a sostenere la propria famiglia allargata che ha fatto il sacrificio di lasciarlo arrivare a diventare medico. Ecco, dottor Opira, lei è da 25 anni in questo ospedale, deve averne viste molte. So che il nord dell'Uganda è una parte appunto del mondo che ha vissuto anche degli anni di conflitto, peraltro non del tutto conclusi. Insomma, com'è cambiato nella sua avventura professionale l'ospedale e il luogo dove vive? Well, starting from when I joined the hospital, there was peace in the region and things like malnutrition was really at the minimal. Quando ho iniziato a lavorare nell'ospedale all'inizio degli anni Ottanta, la regione attraversava una stagione di pace e immediatamente le conseguenze si misuravano prima di tutto nella radicale riduzione della malnutrizione nelle zone rurali. Erano anche gli anni dell'africanizzazione dell'ospedale, che passava progressivamente ai medici ugandesi che vi venivano formati. The security situation of course degenerated completely from around 1986 when the rebellion started. The internal displaced people, abduction of children. Purtroppo, dopo il 1986, l'esplosione della ribellione ha cambiato la situazione. I contadini erano come sempre i più esposti alle violenze e si arrivò a una fase in cui ogni sera migliaia di persone cercavano rifugio per la notte all'interno del compound dell'ospedale e tornavano nei campi solamente la mattina. Ci sono stati enormi problemi per gestire la logistica degli sfollati. Per fortuna, negli ultimi 2 anni la situazione è nettamente migliorata e possiamo solo sperare che continui così. And we hope that it continues. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque a 30 minuti in cronaca e rieccoci almeno idealmente in Africa. Lo ricordo con il dottor Opira, che è direttore dell'ospedale St. Mary di Lacor nel nord dell'Uganda, e con la dottoressa Dominique Corti. A lei chiedo, dottoressa, quanto è complicato trovare fondi in Europa, quindi nei paesi occidentali, anche in Canada, dove peraltro so che, come dire, si svolge una parte della sua attività e della sua storia personale, nel tempo della crisi finanziaria ed economica. Bene, il problema era già stato sentito dai miei genitori fin dagli anni Ottanta, rendendosi conto che l'ospedale cresceva e aveva sempre di più bisogno di fondi, hanno istituito una fondazione appunto per cercare di tirare su soldi, soprattutto per i costi correnti, quello che è molto più difficile da finanziare, perché in Africa è facile trovare fondi per costruire qualcosa, per comprare un'attrezzatura, perché poi c'è una cosa lì che si vede, mentre invece per aiutare con salari e medicine è molto più difficile. Cioè, mi sta dicendo che costruire soddisfa molto di più, diciamo, la generosità del donatore? Ma in tempi anche in cui ci sono stati tanti scandali, uno dice: così almeno vedo il risultato di quello che ho fatto. Certo. In realtà quello da solo non basta, perché poi bisogna che il personale sia formato, e la sanità è tra le attività più complesse da gestire, proprio perché implica molto personale molto formato, con altissima competenza. Ecco, la vostra è una struttura che, come abbiamo detto più volte, già compie 50 anni, è strutturata, di fatto opera come un grande ospedale in una zona rurale, ma non dimentichiamolo, nella seconda città dell'Uganda, quindi insomma non siamo in mezzo ai campi, né la vostra struttura rappresenta un po' quell'idea un po' romantica di una volta degli ospedali africani. Dunque cambia anche l'organizzazione e il reperimento dei fondi. Voi, tra le varie attività, so che siete state lavorando su un progetto che coinvolge 4 grandi fondazioni italiane. Esatto, è un progetto creato da Cariplo, Cariparma, San Paolo e Monte dei Paschi, che hanno voluto creare qualcosa di importante per il Nord Uganda. Hanno raccolto, chiamato alcune associazioni, tra cui noi, Comboni Samaritans, AFSI, CESVI, COPI, AMREF, che tra l'altro ci occupiamo abbastanza di cose tutte molto diverse, per vedere se si riusciva a fare un unico grosso progetto con delle sinergie che avrebbero potuto dimostrare che a lavorare insieme si ottengono dei risultati molto buoni. È una bella quantità di fondi che, soprattutto nel nostro caso, loro hanno capito la nostra necessità che fossero veicolati proprio nell'aiuto alla struttura, ai costi correnti, per cui con sostegno di personale e acquisto di farmaci, che permette all'ospedale di continuare a offrire a una popolazione in un momento molto clou, cioè in un momento in cui si sta uscendo da 25 anni di guerra, la popolazione è estremamente povera e va aiutata ad affrontare quello che possono essere dei costi catastrofici, cioè quelli di una spesa sanitaria anche piccola per noi, per là risulta una cosa che può gettare una famiglia che stava poco poco risollevandosi dalla miseria assoluta, rigettarla di colpo nella miseria assoluta. Dottor Opira, nella sua esperienza, quanto è più forte, se è più forte, l'Africa di oggi, il suo paese, l'Uganda? Qui stiamo parlando di fondazioni europee, di aiuti internazionali. Proprio qualche giorno fa il presidente Barack Obama in Ghana ha in qualche modo scosso il continente africano, invitando all'affermazione delle sue leadership, ai modelli positivi, alla democratizzazione e così via. Insomma, quanto crede, lei prima parlava dell'africanizzazione dell'ospedale, quando è che si arriverà, secondo lei, all'africanizzazione anche della cultura del sostegno finanziario, economico, alla sanità? Well, I think it is, especially for Northern Uganda, it will take some time, as Dr. Dominique said. We are in a transition period. Per l'Uganda settentrionale ci vorrà ancora tempo. Siamo ancora in una fase di transizione e per adesso il conto della sanità, di una sanità di qualità almeno, non può essere pagato dalle popolazioni rurali del luogo. L'economia è ancora molto, molto young and the collection of revenue by government is still on a very small base, mostly those who are employed in the formal sector, so l'economia è ancora troppo fragile e non è ancora possibile ipotizzare un prelievo fiscale capace di finanziare un'organizzazione complessa. Ci vorrà tempo. Insomma, un percorso ancora, diciamo, lungo da fare. Diciamo, quali sono i segnali positivi però che registra nel suo paese, se ce ne sono, e quali quelli più preoccupanti? Well, the positive signs that I see is first of all that with the end of the un segnale decisamente positivo che registro è quello degli investimenti pubblici. Ora che si spende meno nella guerra e nella repressione della ribellione nel nord, vedo effettivamente arrivare più finanziamenti. And then with the base of the education of the masses. Credo che proseguendo su questa strada sarà possibile favorire l'educazione sanitaria e portare avanti la diffusione capillare dell'educazione primaria e secondaria in tutto il paese. Ecco, non mi ha detto però qual è il segnale che la preoccupa di più invece. Ok, yes, the worrying problem is of course mostly from our. Prima di tutto mi preoccupa l'instabilità nei paesi con cui confiniamo. In primo luogo mi riferisco alla Repubblica Democratica del Congo, ma non di meno al Sudan meridionale con cui la nostra regione confina. Certo, l'instabilità regionale, la vicinanza, lo ricordiamo, l'Uganda è un paese dai molti confini, nella sua sponda meridionale il lago Vittoria, ma soprattutto, come è stato citato dal dottor Opira, il grande vicino di Occidente, quindi la Repubblica Democratica, a nord il Sudan, una zona che per anni è stata al centro di conflitti e che oggi non è certo tra le più stabili del mondo. Questo dunque la complessità. Proprio da una parte, diciamo, di questi vicini è arrivata negli anni passati una delle minacce più tremende, almeno di quello che ha spaventato il mondo. Mi riferisco ad Ebola. Ci può raccontare che cosa è accaduto e che cosa significa il divampare di fatto di una crisi sanitaria come Ebola nel vostro ospedale? Well, Ebola came to La Cho was the first place to identify that we had a. L'ACOR è stato il primo ospedale a identificare il virus di Ebola. È stato un arrivo violento e letale poiché ha ucciso due nostri interni. So from that then we realized that we are facing a strange disease. So we called Abbiamo lanciato l'allarme alla capitale Kampala e all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La reazione c'è stata, con l'invio di campioni di virus in Sudafrica e al Centro per il Controllo delle Malattie Infettive di Atlanta, negli Stati Uniti, da dove abbiamo avuto presto la conferma della natura del virus. Center for Disease Control in Atlanta, in USA, had it confirmed that it was the hemorrhagic fever Ebola. And then there on, it caused panic. Both within the health workers, the population. La conferma che fosse la febbre emorragica Ebola ha creato il panico all'interno e all'esterno dell'ospedale. La gente di questa regione aveva paura di avvicinarsi all'ospedale. La gente di Kampala temeva tutti gli ugandesi del nord e il mondo intero aveva terrore di entrare in contatto con qualsiasi ugandese. Mi ricordo bene di essere stato respinto alla frontiera di un paese dove ero andato per una conferenza su questa terribile malattia. It sent shock throughout the world. I remember two big conferences where Ugandans had been invited, they were stopped and reported back to Uganda. Com'è andata a finire? Well, Ebola is an acute epidemic which is almost self-limiting if people follow instructions. In realtà Ebola è un'infezione acuta che tende ad autolimitarsi. La chiave sta ovviamente nell'isolamento. Se si capisce bene con cosa si ha a che fare, si interviene. L'ospedale e alcuni villaggi sono stati isolati e nel giro di 4 mesi l'epidemia era passata. Grazie dottore, questo è anche importante ribadire, le battaglie si vincono anche, si possono vincere, naturalmente si rinnovano dottoressa, ce ne sono sempre pronte. Ecco, vorrei concludere con lei un po' ritornando al nostro punto di partenza, quando leggiamo, sentiamo di 20 miliardi di dollari per l'Africa nei prossimi 3 anni, sta davvero arrivando questo vento nuovo, questo nuovo approccio di cui parla il Presidente Obama? O in qualche modo lo abbiamo già sentito raccontare nel nostro passato? È difficile perché le intenzioni sono sempre buone, ma poi si deve far fronte a tanti problemi anche così della nostra crisi, eccetera. Per cui noi giù speriamo che le promesse vengano mantenute. C'è da dire che in una percezione veramente catastrofica dell'Africa, a parte in Uganda alcuni segnali che sono la capacità del paese di far fronte a un'epidemia di AIDS che ha ucciso anche la mia mamma perché da chirurgo se l'è presa mentre operava, insomma nel 93 i positivi tra le gravide nel nostro ospedale erano 29% e adesso siamo meno del 10%, per cui, e questo è stato fatto proprio solo dal paese. Con tanto aiuto ovviamente, ma sono stati bravissimi. Nel nostro ospedale stesso si parlava dell'epidemia di Ebola, l'ospedale ha fatto fronte, dove di solito si fugge, si lasciano i pazienti proprio perché è una malattia incurabile, per cui si isolano e si lasciano isolati. Lì il nostro direttore sanitario Matthew Luqui ha detto no, il nostro mandato di medico e di sanitario ci obbliga a stargli dietro, a cercare prima di capire quello che si può capire da una malattia così per poterla per scovare più rapidamente un'altra volta e poi per essere vicino al paziente, tanto che l'OMS, uno dell'OMS dice il vostro problema è che vi sta morendo il personale perché voi siete un ospedale compassionevole e ne sono morti 13. Di dipendenti dell'ospedale che nonostante la paura, nonostante l'angoscia, nonostante tutti che dessero loro dei pazzi, hanno continuato loro, i 100 altri volontari dipendenti dell'ospedale, hanno continuato ad aiutare, a lavorare in questo reparto terrificante dove un gesto così di disattenzione ti poteva provocare la morte e 13 di loro hanno dato la vita. Questi erano tutti neri, tutti ugandesi. L'ospedale ha fatto fronte, grazie, l'ospedale ha fatto fronte, viva l'ospedale, quindi attenzione anche, come dire, nelle storie, nelle opportunità di sostegno, ce ne sono molte di storie di successo che naturalmente successi che devono essere confermati continuamente. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, il dottor Opila, il direttore dell'ospedale St. Mary di La Chora, la dottoressa Dominique Corti che oltre a essere parte attraverso la sua famiglia della storia e oltre a essere nata in quell'ospedale, oggi si è assunta il compito delicatissimo di sostenerlo dal punto di vista finanziario attraverso quello che abbiamo sentito, anche il supporto di sostenitori, di fondazione, di chi appunto è in grado di farlo. Siamo arrivati alla conclusione, un grazie anche a Peter Bescapè in regia e vi lascio naturalmente agli appuntamenti consueti di Radio 24.